30 stampa nel dopo gara. Per questi brasiliani un 2-1 con la Corea non è proprio risultato. Allora, per dirne una, questi cinesi erano in quarto e non c'era neanche una donna, dai, facciamolo. C'erano. Ma dove? Figurati, si fanno uscire i soldi.